America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. Dallas, Texas, una città che abbiamo conosciuto per un altro grande tragico evento americano, l'assassinio del presidente John Kennedy. Ieri c'è stato un altro evento, i funerali dei 5 poliziotti uccisi. Sono intervenuti 2 presidenti, il presidente Barack Obama, il presidente George Bush, un bianco e un nero insieme, un democratico e un repubblicano, proprio come simbolo della ricerca di quell'unità nazionale di cui il paese ha bisogno e che sembra aver perso. E questo, devo dire, succede proprio alla vigilia delle 2 convention, che è il momento clou per la liturgia del processo democratico americano. Dunque, pochi giorni prima si cerca di ritrovarsi insieme per superare la spaccatura razziale. Glory, glory, alleluia, glory, glory, alleluia. Ecco, questo è lo sfondo, parole di grande commozione del presidente Barack Obama, parole di grande commozione anche di George W. Bush. Però c'è da chiedersi se, nonostante queste parole, se c'è ancora l'America che conosciamo, perché di questi tempi, a giudicare da quel che vediamo, sembrerebbe di no, con la polarizzazione in politica interna, con le ripicche, con le dimostrazioni di militanti di colore che incoraggiano a vendicarsi dei poliziotti usando canzoni rap, con i poliziotti che uccidono per paura neri innocenti. Insomma, lo spettro di una divisione razziale sempre più forte. E se pensiamo poi che ci sono anche molti americani pronti a votare per chi vuole costruire muri oppure promette di uscire dalla NATO, beh, devo dire che in effetti l'America di oggi sembra molto diversa da quella che abbiamo conosciuto nell'ultimo secolo. C'è sempre la speranza che tragedie come quella di Dallas aiutino a guardarsi dentro e a riscoprire in mezzo alla crisi il carattere per respingere queste forze per la divisione, per l'isolamento, per la discriminazione. Ecco, ed è su questo che ieri Barack Obama ha voluto puntare per la sua orazione funebre a Dallas. Si è aggrappato, devo dire, quasi con disperazione, con commozione, all'America che abbiamo conosciuto, non quella che ci sembra che ci stia sfuggendo. Quell'America che ha visto ben altre crisi, le ha superate e che non potrà mai essere soppiantata da chi vuole minarne alla base i valori di fondo, quei valori per solidarietà, altruismo, generosità, devo dire generosità anche spirituale, che ci hanno dato i padri pellegrini, prima ancora dei padri fondatori e dei firmatari della Dichiarazione di Indipendenza o della Costituzione. Sentiamo Obama. I'm here to insist that we are not as divided as we seem. And today in this audience I see people who have protested on behalf of criminal justice reform grieving alongside police officers. Ecco, questa è una frase chiave, una delle frasi centrali di Barack Obama. Dice: non siamo divisi come sembriamo. Oggi nella platea ho visto persone protestare contro la brutalità della polizia, ma anche piangere per gli agenti morti. Durante la sparatoria ho visto bianchi che aiutavano neri e viceversa. Questa è l'America che conosco. Ecco, e questo è il tema di Barack Obama. L'America che conosco. E devo dire, nella descrizione dell'America che conosciamo, mi ha colpito un passaggio in cui il presidente americano, in modo quasi controintuitivo, viste le circostanze, dice a Dallas e al paese: non siamo così divisi come sembra. Lo dico, e qui sto citando Obama, perché conosco l'America, perché so come ce l'abbiamo fatta in circostanze impossibili, so come ce l'ho fatta io nella mia vita non sempre facile. È quella l'America che conosco. Ecco, è stato rassicurante, è stato un discorso davvero molto importante quello di Barack Obama in questo momento, e un discorso di cui credo abbiamo bisogno un po' tutti noi, che siamo confusi non solo da quello che succede in America, ma naturalmente da quello che succede nel mondo, da quello che succede a casa, perché di polarizzazione si parla ormai dappertutto. Obiettivamente quello di Barack Obama non era un discorso facile. C'era intanto l'aspetto simbolico, quello di essere il primo presidente nero della storia con una doppia missione, quella di confortare tutti i poliziotti d'America orfani dei loro 5 colleghi uccisi da un fanatico a Dallas. E però Obama aveva anche l'imperativo morale di dover rassicurare i 40 milioni di afroamericani che ogni sera, come ha detto il presidente, temono che i loro figli non tornino a casa solo perché dietro il loro cappuccio c'è un luogo comune di sospetto. Ecco, questo presidente era forse il personaggio migliore per tenere insieme queste 2 missioni e ci è riuscito molto bene, grazie alla sua straordinaria, drammatica abilità oratoria, che ha raccolto applausi sinceri quando ha parlato dell'eroismo della polizia di Dallas. Sentiamo. Michael Kroll answered that call. His mother said he knew the dangers of the job, but he never shied away from his duty. Ecco, Obama che dice Michael Kroll era uno di loro, ha risposto alla chiamata del suo paese. Sua madre ha detto conosceva i rischi del suo lavoro, ma non è mai venuto meno al suo lavoro. Ha raccontato le storie dei poliziotti uccisi, delle loro famiglie, della loro abnegazione. E ha detto erano lì a proteggere chi dimostrava contro di loro. Questo fanno i poliziotti a Dallas e lo fanno in tutta l'America. Allo stesso modo, ovviamente, non possiamo nasconderci dietro un dito o dietro l'eroismo di alcuni per far finta che non sia successo nulla. Di nuovo Obama, dobbiamo renderci conto che secoli di schiavitù non vengono cancellati automaticamente dalla firma di una legge per i diritti civili. Ecco, parole di elogio dunque per coloro che si comportano in modo professionale, di comprensione, e per chi si sente discriminato. Parole, devo dire, magistrali. Obama forse avrebbe potuto fermarsi lì, perché poi ha fatto anche dei riferimenti politici. La politica impazza in questi giorni. Sappiamo che proprio ieri Hillary Clinton ha ricevuto l'adesione, l'appoggio di Bernie Sanders. Tra l'altro un appoggio così per ora un po' tiepido. Stiamo aspettando, potrebbe capitare nelle prossime ore, che Donald Trump ci dia il nome del prossimo vicepresidente per la candidatura repubblicana. Ecco, però forse Obama non doveva entrare in quelle che possono essere le direttive politiche per cercare di risolvere alcuni dei problemi. Ma è stato un momento, chissà, forse per debolezza. Per il resto, con l'emozione che è in grado di dare in questi suoi discorsi importanti, Obama ha recuperato con successo quei fili sottili che ancora tengono insieme il paese, perché dobbiamo ammetterlo, per tutti noi è ugualmente importante aggrapparci all'idea che l'America che abbiamo conosciuto e che ci sforziamo di riconoscere esista e resista anche sotto gli attacchi delle ideologie, della violenza, dell'egoismo e della separazione. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @ Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, devo dire, c'è stato un momento particolarmente commovente alla fine dei discorsi, alla fine di questa commemorazione funebre per i poliziotti uccisi, tra l'altro interreligiosa, c'erano un po' tutte le fedi, e non si è cantato un inno, ma si è cantata una grande canzone americana, anzi l'inno per la Repubblica Americana, che voi tutti conoscete come Glory, Glory, Alleluia. Ecco, anche noi facciamo questa canzone per unirci a questo senso di unità che sentiamo molto forte. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. He is trampling out the vintage where the grapes of wrath are stored. He hath loosed the fateful lightning of his terrible swift sword. His truth is marching on. Da New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!